Cari radioascoltatori, dovreste essere all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento, come sempre ogni giovedì sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Un saluto da Annalisa in studio e da Giulio in regia, e in collegamento dovrebbe esserci Alessandra Dall'Aia. Sì, buonasera Annalisa e buonasera Giulia. Dunque Alessandra, ciao, quindi benvenuta ai radioascoltatori ad una nuova puntata di Giro di Boa. Una puntata ricca di temi, di attualità. Io direi di iniziare subito, Alessandra, con la presentazione dell'ospite e del tema di questa sera. Che ne dici? Sì, esatto. Se tu vuoi presentare il nostro ospite, che credo sia già in collegamento con noi. Enrico, ci sei? Sì, ci sono. Buonasera Enrico e benvenuto. Sono Annalisa dallo studio di Radio Alma Bruxelles. Buonasera. Buonasera dunque, il nostro ospite è in collegamento, Enrico Galoppini, è arabista e redattore di Eurasia, diplomato in lingua araba a Tunisi e ad Amman, ha lavorato nell'ambito di progetti internazionali ed ha insegnato per alcuni anni storia dei paesi islamici presso le università di Torino e di Enna. Particolarmente interessato agli aspetti religioso e storico-politico del mondo arabo-islamico, alla politica internazionale, ai viaggi, ai fenomeni di costume, collabora e ha collaborato con riviste e quotidiani. Dunque, con Enrico questa sera, Alessandra, approfondiremo un tema purtroppo molto attuale. Sì, esatto, parleremo del Medio Oriente e più precisamente parleremo dell'attacco che c'è stato a Gaza da parte di Israele. Come i nostri cari amici e gli ascoltatori ben sapranno, dichiarando di voler ripristinare la sicurezza nelle zone dello Stato di Israele, che erano minacciate dai lanci di razzi Katyusha da Hamas, il 27 dicembre del 2008 i vertici politici israeliani hanno lanciato l'operazione chiamata Piombo Fuso contro la striscia di Gaza, con bombardamenti aerei mirati a colpire le postazioni di lancio dei missili palestinesi. I militari di Hamas posizionavano queste rampe di lancio in prossimità di scuole, abitazioni civili, ospedali, sedi televisive. In seguito, dunque, la guerra è incominciata il 27 dicembre, il 3 di gennaio del 2008 è iniziata invece l'invasione di terra da parte dell'esercito israeliano. L'inasprirsi del conflitto ha di fatto congelato il già difficilissimo processo di pace nella regione. Subito dopo l'inizio dell'operazione Piombo Fuso, la diplomazia internazionale si è messa ovviamente in moto per cercare di rilanciare il dialogo fra le due parti. Da ricordare che l'8 gennaio il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha approvato la risoluzione 1860 che chiedeva un immediato cessate il fuoco ed il ritiro delle truppe israeliane. Tra i 14 dei 15 Stati membri votarono a sostegno della risoluzione, vi fu solo l'astensione degli Stati Uniti. Sia Hamas però che Israele respinsero questa richiesta. Più precisamente, il primo ministro israeliano definì la risoluzione impraticabile a causa del continuo lancio di razzi dalla striscia di Gaza, mentre invece il portavoce di Hamas dichiarò che le Nazioni Unite non tenevano in considerazione gli interessi del popolo israeliano. Il 18 gennaio 2009 si è poi svolta la conferenza di pace di Sharm el-Sheikh, fortemente voluta dai governi occidentali e dal governo egiziano, che ha portato all'accettazione della tregua da parte di Israele e del ritiro da Gaza, a patto che i confini siano sorvegliati per evitare il contrabbando di armi. Praticamente dopo 22 giorni di guerra, il bilancio complessivo stilato dalle Nazioni Unite è il seguente: vittime palestinesi circa 1200, di cui 410 bambini, feriti più di 5300. Da parte israeliana invece si calcolano 13 vittime, di cui 3 civili e quasi 200 feriti. Dunque Enrico, cosa ne pensi di questa breve introduzione? Allora, dunque, devo innanzitutto correggere forse una svista: sono stati nominati dei Katyusha, ma in realtà sono questi famosissimi, ormai celeberrimi razzi Qassam, che tutti, Katyusha forse, diciamo, quelli di Hamas sarebbero ben contenti forse di averne, ecco, perché sono certamente più. Forse diciamo che è stata una mia svista, che Quindi, diciamo. mi sono perfettamente resa conto quando l'ho Che detto. sono gli artigianalissimi razzi Qassam. Dunque, poi un'altra precisazione che vorrei, ecco, fare è quella relativa al fatto che le postazioni di difesa palestinesi, diciamo, e questo poi è stato anche un po' uno dei refrain preferiti, no, da parte israeliana, secondo cui i palestinesi si appostano vicino alle scuole, eccetera, eccetera. Però va anche detto che il territorio di Gaza, che è un territorio è abitato con una densità abitativa appunto incredibile, una delle zone più abitate del mondo, cioè non è che poi permette di mettersi chissà dove, diciamo, come dire, in una battaglia in campo aperto, per cui diciamo è ovvio che poi il tutto è organizzato in un tessuto urbano dove poi è difficile distinguere quello che è per così dire militare o civile. Tant'è vero che anche la definizione di vittime civili in un certo senso poi perde anche un po' di significato, no, in questo contesto, anche perché lo avrebbe se da una parte e dall'altra ci si considerasse, diciamo, su un pari livello di forze, per dire, belligeranti, militari, quando poi invece si sa benissimo che lo status di belligerante non è quasi più riconosciuto assolutamente. Ricordiamoci anche di cosa è successo all'Iraq, insomma, che poi è stato considerato a partire dalla sua dirigenza alla stregua di un'accolita di briganti, no? Tant'è vero che dal 91 fu coniata la definizione di operazioni di polizia internazionale, dove ovviamente è previsto il poliziotto ma anche il bandito, no, internazionale. Quindi diciamo, una volta finito lo schema per cui si dichiara la guerra tra stati, è ovvio che poi anche la questione di cosa è civile, cosa è militare svanisce un po', diciamo, siamo in attesa di un dizionario nuovo che ridescriva un po' più fedelmente l'attualità, ecco, il mondo in cui stiamo vivendo. Allora, poi sì, continua, prego. Ecco, per quanto riguarda l'evolversi degli eventi, va detta una verità, una verità sacrosanta, che il tutto chiaramente non parte dai razzi Qassam, da questi razzi Qassam che tra l'altro tutti conoscono, quando poi nessuno conosce tutto il resto degli armamenti in dotazione agli israeliani, per cui anche su questo bisognerebbe un po' porre attenzione, no? Perché alcune cose le conosciamo, altre no. E tutto parte dall'elezione che ha portato, dalle elezioni legislative che hanno portato alla vittoria di Hamas. Tra l'altro elezioni, lo ripeto per l'ennesima volta, altri, diciamo, l'hanno rilevato, sono state elezioni svoltesi in totale trasparenza, come fu riferito da tutti gli osservatori europei chiamati in loco per l'occasione. E però da quel momento poi è iniziato il calvario di Gaza, poi alla fine dobbiamo iniziare da lì, diciamo, se volendo possiamo andare indietro all'infinito, diciamo, se dovessimo ricostruire proprio l'ultima fase, il problema nasce lì, nasce dalla vittoria di Hamas, che da una parte è ambivalente, un po' come tutto, no, poi diciamo in politica, perché da una parte ha fatto anche comodo agli israeliani, perché comunque ha dato la scusa di dividere, anche per diffondere concettualmente l'idea che anche quel 22-23% della Palestina storica rimasta in vario modo, perché va detto in vario modo, perché in base agli accordi poi c'erano le zone A, le zone B e le zone C, quindi non era tutta sotto controllo palestinese, ma insomma rimasta in vario modo sotto un'autorità palestinese, veniva poi smembrata in due parti, una diciamo sotto l'egida degli uomini di Abu Mazen e l'altra quella di Haniyeh, quindi Hamas, e questo sicuramente era un punto a favore degli israeliani. Dall'altra però va anche detto che da come poi si agitarono tutti i circoli della ND, certamente questo non era molto gradito a quelli che fin lì erano stati proposti come rappresentanti del popolo palestinese. Infatti quella che poi venne chiamata la guerra civile di Gaza non fu in realtà la guerra civile, fu nient'altro che l'operazione degli esponenti di Hamas, cioè in fondo di quelli che avevano vinto le elezioni, ma in tutta la Palestina, attenzione, non solo a Gaza, di evitare... Scusami Enrico, ricordi quando sono state le elezioni? Dunque, le elezioni furono sul dunque a cavallo tra il 2007, sembra verso la fine del 2007, adesso la data non la ricordo di preciso, comunque diciamo oltre un anno fa. E dunque, in seguito a queste elezioni, il risultato portò la Hamas ad essere il partito maggioritario e dunque, certo, dall'epoca Hamas, diciamo, governa Gaza, la striscia di governa Gaza. Governa Gaza, ma in realtà, diciamo, aveva conseguito anche degli importanti risultati in Cisgiordania, se non che e tutta una serie di cause, di forze contrarie ha fatto sì che comunque da quelle parti non ci fosse seguito. Cioè, diciamo, si è fatto in modo, come dicevo prima, di necessità virtù, buon viso a cattiva sorte, no? Cioè, hanno vinto quelli di Hamas, e allora bene, allora hanno creato quello che con questo neologismo un po' sprezzante anche su varia carta stampata è stato definito Hamas Stan, no? Cioè, come va di moda, no? Utilizzare questi termini. E però ricordiamoci che comunque il primo ministro a tutti gli effetti era Ismail Haniyeh. No, è Haniyeh. E mentre invece, e questa è la cosa incredibile, non erano più quelli dell'ANP il primo ministro, e quindi hanno, non a caso, immediatamente è stato posto poi l'isolamento di Gaza, dove risiedeva. Sì, perché ricordiamo che a livello internazionale Hamas non è riconosciuto come un partito politico, ma è bensì considerata come un'organizzazione terroristica. Dunque, sì, le elezioni da Hamas non sono state riconosciute a livello internazionale, e il primo ministro è a livello internazionale dell'autorità palestinese è comunque rimasto Abu Mazen. Diciamo però l'ordine degli eventi è al contrario, come dire, e prima ci sono state le elezioni sono state dichiarate legittime e tutto a posto, diciamo, già è un po' strano che insomma si vada sempre a vedere come funzionano le elezioni degli altri, ma comunque diciamo quelle erano elezioni un po' particolari dove a un certo punto è stata accettata tutta la presenza di osservatori. Gli osservatori non hanno detto nulla di strano, e non è stato nemmeno detto nulla prima, al momento poi della candidatura. E tra l'altro è interessante anche ricordare che a favore delle candidature di Hamas si espressero anche personalità delle più svariate estrazioni, non ultimi anche cristiani, e addirittura ricordo anche interviste a delle religiose, figuriamoci, insomma, per dire, questo era molto lontano anche da quell'immagine del partito monolitico, no, di tipo talebano o integralista che dir si voglia, che poi è stata diffusa. Come poi sono state vinte le elezioni, è scattato il cordone sanitario. A quel punto anche a livello europeo non c'è stato più nessun, almeno diciamo a livello di diplomazia apparente, diciamo così, che poi c'è sempre anche il livello sotterraneo, quei canali diciamo un po' inconfessabili, però a livello perlomeno esterno c'è stata la chiusura totale con quello appunto che diceva dell'iscrizione nella lista delle organizzazioni terroristiche, eccetera eccetera. Ma aggiungo anche un'altra cosa, che tra l'altro sebbene Abu Mazen sia dai primi di gennaio non sia più il presidente di questa autorità nazionale palestinese, ancora viene portato in giro un po' come se fosse ancora il presidente della Palestina. Cioè qui veramente si è fatto di tutto e di più, insomma è stato fatto carta straccia di quello che perlomeno da parte europea o occidentale che dir si voglia dovrebbe essere una questione di principio, ovvero il rispetto di queste famose istituzioni. In seguito all'aggressione che c'è stata e dunque ai 22 giorni di guerra, questo ha comunque permesso, tra virgolette, una resa dei conti fra le due fazioni palestinese, mi riferisco ad Hamas e al-Fatah. La resa dei conti è tale che infatti dopo, quando sono terminati i bombardamenti, diciamo la fase peggiore, perché poi in realtà qualche altro attacco così, diciamo, sia dal mare che l'aereo ha continuato anche dopo i 22-23 giorni non riesco nemmeno a definire la guerra, perché insomma poi guerra diciamo è un po' un'altra cosa. Diciamo, dopo questi giorni c'è stata una dichiarazione da parte della dirigenza di Hamas per la quale si sarebbe dato poi un seguito a quello che era successo nei 22-23 giorni nella striscia di Gaza, ovvero la collaborazione di alcuni elementi evidentemente forse legati a qualche settore dell'ANP che avevano lavorato diciamo dall'interno. Questo diciamo non è che sorprende molto, perché sono note diciamo anche le collusioni di alcuni personaggi dell'ANP, questo è noto, per cui non c'è da sorprendersi. Quindi la resa dei conti credo sia in atto. Purtroppo ecco, qui viviamo in un mondo di informativo completamente impazzito, perché io dopo che sono state dette queste cose, cioè come dire, dopo una comprensibile, cioè se vogliamo anche resa dei conti interna dopo quello che è successo, qua sono state diffuse voci, mi ricordo addirittura di aver letto delle agenzie per cui a Gaza veniva installata la Sharia, no, proprio detto, che poi con tutto quello che si porta dietro, no, di reazioni, di isterismi, ma era tutta una notizia falsa, questo è riportato da agenzie italiane. Quindi cosa trarre da questa vicenda? Allora, a livello interno, a mio avviso, Hamas si è rafforzata, perché fondamentalmente poi è rimasta fermo dov'era. La cosa più importante e il simbolo, come dire, di questa situazione che io rilevo è il fatto che il capo, che notoriamente risiede a Damasco, che è Khaled Mashal, va e viene dal Cremlino come se fosse il capo di Stato. Cioè, questo fatto non bisogna scordarlo, cioè bisogna iniziare un po' a vedere più dall'alto, no, tutta la faccenda, e non più, diciamo, come una semplice questione regionale che interessa, come dire, palestinesi e israeliani, questo, diciamo, lo sappiamo, e introduciamo un po' anche il quadro generale di riferimento, perché quando il capo di Hamas viene invitato al Cremlino e non viene invitato, per dire, a Abu Mazen, questo è un segno molto importante, no? Diciamo anche di che cosa, di quali sono gli equilibri, quali sono gli attori che stanno dietro una parte e l'altra. Perché è notorio certamente che Gerusalemme, il principale sponsor sono gli Stati Uniti, e a seguire con tutta una serie di interessenze anche da parte europea, con altri invece che a livello europeo hanno provato anche a fare qualcosa, anche la Francia, diciamo, si è data a fare, però subito rimessa un po' a posto dopo qualche uscita. E dall'altra parte c'è tutto il campo, e qui lo dico in virtù dell'essere appunto redattore della rivista Eurasia, c'è il campo eurasiatico, va detto, con tutta la filiera che dalla Russia passa poi per l'Iran e anche la Turchia. Ovviamente in questa vicenda abbiamo visto molto più attive Turchia ed Iran, ovviamente, perché la Russia non è che ha interesse adesso a disporti in prima persona, però ad esempio il fatto che Erdogan... Fai bene a citare Turchia ed Iran. Il fatto stesso che il portavoce di Hamas sia partito per Teheran subito dopo la firma della tregua, l'accettazione della tregua, scusami, dunque l'entrata in vigore il 18 gennaio, questo segnala senz'altro quanto paesi, come tu dicevi, che sono confinanti o che comunque appartengono alla regione, siano particolarmente interessati al conflitto, cioè il conflitto arabo-israeliano, palestinese-israeliano, non è semplicemente riferito al territorio, ma è una questione molto più ampia. Ma certamente, è come dire, è il banco di prova della direzione che prenderà, si potrebbe dire, il secolo ventunesimo, in un certo senso, perché secondo te il portavoce di Hamas cosa è andato a cercare a Teheran? Un supporto, dei soldi, finanziamenti? Oppure i soldi, diciamo, li cercano un po' tutti. No, la cosa importante è questa, allora, da dire sull'Iran, su cosa va a fare il capo di Hamas. Allora, innanzitutto facciamo poi a piazza pulita di un ritornello che viene raccontato da anni ormai, no? Dal 2001, da quando tutti sono diventati esperti di Islam, cioè i sunniti sono contro gli sciiti, ma non è vero, cioè questa storia del mettere, forse all'inizio è stata anche provata questa mossa, anche non solo a livello propagandistico mi riferisco, ma anche proprio fattualmente, no? Con varie manovre per stressare la situazione tra queste due anime del mondo islamico, ma adesso questa situazione qua non c'è più, cioè sciiti e sunniti marciano assolutamente di pari passo, perché il fatto che l'Iran vada d'accordo con Hamas e che comunque trovi una sintonia anche con ambienti dei fratelli musulmani la dice lunga sul fatto quanto ormai tutto questo scontro tra sciiti e sunniti ormai sia proprio un argomento da libriccini di bassa divulgazione islamologica. E l'Iran, perché l'Iran? Perché l'Iran è un po', come dire, l'attore, è come dire l'interfaccia, no? Di quello che sta avvenendo in base a un disegno eurasiatico, si potrebbe dire, completo. Perché se da una parte c'è l'ONU con le sue risoluzioni, perché poi anche queste risoluzioni bisogna ricordare sempre che vengono prese in base a quel capitolo per il quale non è previsto l'uso della forza, no? Perché c'è una bella differenza, no? Tra prenderle, diciamo, come dire, dichiarare che deve cessare il fuoco, deve ritirarsi, però poi dopo non ci sono gli strumenti, non vengono, come dire, messi in opera i vari strumenti, come sono stati fatti invece per l'Iraq, ricordiamoci, no? Per l'Iraq sono state approvate tutte le risoluzioni operative. Allora, dicevo, per quanto riguarda l'Iran, c'è segno molto chiaro, ma non di egemonia iraniana, che dire, mondiale, vicino orientale. C'è un disegno molto più complesso che coinvolge, come dicevo, sia l'Iran sia la Turchia, e perché ad esempio la Turchia è un paese NATO, e notoriamente ma però non è più, come dire, un baluardo della NATO nella regione, perché già il fatto che dal 2003 non abbia dato l'utilizzo delle basi per l'aggressione all'Iraq, in pratica ha voluto dire che la NATO da quelle parti quasi non c'è più. E questa mossa, se vogliamo, spettacolare, ma poi anche sostanziale, del diverbio, no? Diciamo di questo diverbio tra Erdogan e Peres al vertice di Davos, ha come sancito in un certo senso la presa dell'iniziativa in maniera eclatante da parte della Turchia, che ha fatto quello che probabilmente dovrebbe fare qualche rappresentante europeo. Cioè, si parla molto della Turchia nell'Unione Europea, e forse la Turchia in quell'occasione ha dato, come dire, in un certo senso una lezione, no? Anche dal punto di vista di quello che dovrebbe essere fatto in base agli interessi di un'Europa che tutto ha da guadagnare in una convivenza per quanto riguarda chiaramente gli aspetti economici, politici, ma anche poi a seguire culturali nel bacino del Mediterraneo. Il problema fondamentale di questo attacco israeliano su Gaza, visto che tu non la vuoi definire guerra, è il problema dei valichi e del contrabbando, probabilmente di armi, che c'è fra Egitto e Gaza. Dopo questi 22 giorni, com'è la situazione dei valichi? Sono chiusi? Perché ricordiamo che tra i valichi non passano solo le armi, passano anche gli aiuti umanitari. E come ricordavo prima, ci sono stati più di 1200 morti palestinesi e più di 5000 feriti. Fra le altre cose, ci sono state 5000 case distrutte, 16 edifici governativi distrutti, 20 moschee, e oltre 25.000 persone ora a Gaza hanno la casa demolita. Per cui ovviamente parlare di aiuti umanitari è una priorità in questo momento. Allora, io sono un po' fissato sulle questioni, forse la mia formazione, no? Anche di studi di lingua araba, sono un po' fissato sulle questioni terminologiche, no? Sì. La definizione di aiuti umanitari, che noi sappiamo voler significare chiaramente i camion, no? Che entrano con il cibo, medicinali, eccetera, eccetera. Però la definizione di aiuti umanitari, secondo me, non è più da utilizzare. Perché? Mi spiego. Perché questo aggettivo umanitario, in nome del termine umanitario sono state fatte anche delle guerre, la guerra umanitaria, no? Ricordate tutti, fu quella alla ex federazione jugoslava. Allora vuol dire che praticamente tutto questo termine nasconde che cosa? L'azione, e qui di nuovo invito sempre, e poi arrivo anche alla questione dei valichi, cioè la questione, come dire, di questa guerra a livello planetario, che poi di volta in volta ha degli scenari regionali, per cui di volta in volta focalizziamo la nostra attenzione una volta sul Caucaso, una volta sulla Palestina, un'altra volta da un'altra parte, ma poi bisogna sempre tenere insieme il tutto, perché lo scontro, diciamo, è quello per l'egemonia mondiale. Allora, la parola umanitario, che cosa fa venire in mente? Fa venire in mente l'azione delle ONG, no? Di tutte quelle ONG, intendo, no? Le piccole associazioni, no? che vivono di qualche obolo, diciamo, degli affezionati, ma di grosse organizzazioni che tutto sono tranne che non governative, cioè sono quelle che poi hanno finanziato e anche proprio operativamente condotto le cosiddette rivoluzioni colorate, a partire dall'esperimento georgiano e poi giù in Ucraina, Asia centrale. Allora, questa parola, diciamo, dobbiamo iniziare ad eliminarla, perché sennò, diciamo, veicola ancora l'idea che sia un buono agire in nome dei cosiddetti, diciamo, diritti umani, quando poi sappiamo benissimo essere, come anche ha scritto bene, per esempio, anche il professor Zolo in varie pubblicazioni, cioè si tratta di un'ideologia a geometria variabile. Come dire, questi diritti umani valgono alcune volte e non valgono altre volte, perché se valessero, diciamo, tutto quello che è successo a Gaza, come ben descriveva, di distruzioni di ogni tipo e di pene per questa popolazione martirizzata, non si dovrebbe assolutamente più avere notizia. Detto questo, allora, il discorso dei valichi è importante, e infatti sta nelle trattative condotte dal rappresentante di Hamas al Cairo, no? L'ultima mm-hmm. notizia mi sembra che parli di un 75% dei valichi. Ora però il 75% sembra, cioè, come dire, mette ottimismo, però bisogna sempre vedere anche quali, no? Quali, a quali condizioni. E di mezzo ci si è infilata la famosa faccenda del caporale cosiddetto rapito, no? Anche questo è un termine errato, perché il rapimento, diciamo, chi la conduce, l'anonima la sequestri, no? In realtà, allora, da una parte si dice che si fa la guerra, quando poi non ci conviene non è più una guerra ma rapiscono, insomma, allora qui c'è qualcosa che non torna. Diciamo che appunto il linguaggio, come tu stesso hai detto, è sempre molto non è sempre lineare. In effetti, sì, queste parole non hanno mai una valenza univoca, cioè sempre univoca, a seconda del, esatto. A causa di alcuni problemi tecnici abbiamo incominciato la trasmissione un po' in ritardo, dunque siamo proprio stiamo correndo perché non abbiamo tantissimo tempo. Io ti volevo fare un'ultimissima domanda. Tu prima hai parlato di Turchia, abbiamo parlato di Iran e nella regione c'è anche la Siria, che è senz'altro un attore molto importante. Secondo te sono credibili le indiscrezioni che su un possibile accordo tra Israele e Siria per la restituzione del Golan, ed eventualmente questo potrebbe portare un po' di stabilità finalmente nella regione? No, assolutamente no. Secondo me si tratta di un pio desiderio, semplicemente per la stabilità o la restituzione del Golan? Tutto, è tutto un pio desiderio, o meglio, un desiderio apparente, nel senso, partiamo dalla cosa più importante. La cosiddetta pace, o il processo di pace che dir si voglia, è una sorta, non so come chiamarlo, di coniglio di pezza dietro il quale corrono i levrieri, no? Come negli stati inglesi, nel senso che non c'è assolutamente interesse, fin tanto che determinati equilibri a livello mondiale persistono, a che in quella regione si creino le condizioni per una pace stabile, giusta e duratura. Questo è quanto. In un certo senso, cioè, come dire, la cosiddetta crisi, che etimologicamente vorrebbe dire un momento di acuzie, no? di una situazione particolarmente stressata, una crisi che si protrae perennemente per decenni, è segnale, appunto, è indice del fatto che si ha interesse a mantenerla per vari motivi. Perché, ad esempio, la difesa dell'esistenza, il diritto di resistere da parte di Israele, poi diventa la scusa, per esempio, per intervenire una volta contro l'Iraq, una volta contro l'Iran, una volta contro la Siria, cioè è potenzialmente infinito, quando in realtà quella poi costituisce la scusa. Quindi, diciamo, non c'è assolutamente da credere, fin tanto che non emerge non si chiarifica uno spostamento degli equilibri verso le potenze asiatiche, non c'è assolutamente da aspettarsi una pace in quella regione. Nello specifico della Siria, il Golan non potrà assolutamente mai essere restituito, per il semplice fatto che il Golan non è tanto importante dal punto di vista strategico, perché oggi gli armamenti non sono più quelli del 73, ma soprattutto per la questione idrica, perché il Golan chiaramente significa anche poter controllare l'afflusso delle acque verso il Giordano, e quindi gli israeliani non possono assolutamente restituirlo. Tra l'altro la cosa importante nel citare la Siria è ricordare che la Siria ha acquistato tantissimi armamenti da Iran e Russia. Tra l'altro basta andarsene anche su internet a vedere vari filmati che vengono caricati che dimostrano la raffinatezza, cioè il livello molto avanzato degli armamenti iraniani. Il fatto già che li mostrino, secondo me anche quello è un segnale. Non a caso invece la Russia non mostra molto, non fa capire molto, invece l'Iran sì. Questo è sempre, secondo me, quell'ottica per cui si lavora sempre un po' per interposta persona. E la Siria, dicevo, ha un formidabile armamento che a questo punto a tutti gli effetti permette di mantenere tutte le città israeliane praticamente sotto un cecchinaggio missilistico, si potrebbe dire, e quindi non verrà assolutamente né minacciata, però nemmeno vera, secondo me, quell'idea per cui la Siria farà la pace con gli israeliani, per il semplice fatto che l'unico, e l'opinione pubblica siriana non potrebbe non accettare una pace senza la restituzione delle alture del Golan, ma ripeto, il Golan non può essere assolutamente restituito. Enrico, siamo veramente in chiusura, ti vorrei fare un'ultima domanda. La nuova amministrazione americana, secondo te, riuscirà a fare del Medio Oriente una sua priorità? Il presidente Obama ha nominato George Mitchell come inviato speciale appunto per il Medio Oriente. Insomma, secondo te riuscirà la nuova amministrazione a portare un contributo nella regione? Allora, cerco di essere telegrafico stavolta. Dunque, il nuovo presidente ha soprattutto da lavorare sul piano interno più che sul piano della politica estera, questo è chiaro, si vede già già si capiva da prima, ma si vede già anche dall'inizio, quindi secondo me non sarà molto, molto presente sulla scena vicino orientale. Invece sarà da tenere d'occhio come, cioè le modalità di come i vincitori delle prossime imminenti elezioni israeliane appunto cercheranno di coinvolgere gli Stati Uniti in manovre contro l'Iran. Questo non per dire che gli Stati Uniti sono, come dire, una sorta di gigante stupido manovrato dal furbissimo Israele, come spesso, cioè questo è un racconto che va molto di moda, no, nei paesi arabo-musulmani. Quando io invece in realtà sono più convinto del contrario, comunque nella chiave di lettura al contrario, cioè, ovvero che Israele sia la longa manus degli Stati Uniti e dell'Occidente in genere, della regione vicino orientale, fermo restando che poi entrambi poi si rafforzano l'uno con l'altro. Dicevo, chi vincerà queste elezioni cercherà comunque in qualche modo, stante la crisi tremenda di tipo economico e demografico in cui versa lo Stato israeliano, di coinvolgere gli Stati Uniti in nuove avventure medio orientali. Se l'America, diciamo, non collabora, il quadro medio orientale cambia, ovviamente, perché tutto quell'equilibrio regionale si regge sul fatto, proprio sull'amicizia, no? In primis finanziaria, poi su degli armamenti e poi diplomatica, no? Abbiamo visto l'unica astensione anche in sede di ONU degli Stati Uniti, però va anche detto che non può non collaborare, quindi in un certo senso si sono infilati in un circolo vizioso, cioè e questo circolo vizioso nasce a partire dal 90, questa è l'onda lunga di quello che sembrava negli anni 90 così facile da come dire, il mondo unipolare, nasce dagli anni 90 quando a un certo punto la fine della scusa del comunismo e quindi del pericolo sovietico e la nuova mossa, come dire, della perestroica iniziata dal Gorbaciov e poi è arrivata con l'onda lunga fino a Putin, no? Con la parentesi di Yeltsin, con la Russia molto debole ancora. Adesso, diciamo, questa inevitabile lunga manovra, ma è inesorabile, di integrazione eurasiatica ha messo in moto, diciamo, un circolo vizioso per cui non hanno più altre carte da giocare, diciamo, Stati Uniti e Israele, se non, come dire, avvilupparsi in una logica per cui sempre dovranno cercare nuove guerre, ma queste guerre poi non si concluderanno in nulla di fatto, questo al di là dello triste spettacolo dei morti, della carneficina, grazie a queste armi sempre più micidiali, no? Però se poi se usciamo dal quadro stretto di un territorio come Gaza, ma già in Libano hanno avuto grossissimi problemi, figuriamoci con l'Iran. Quindi, diciamo, riassumendo tutto il discorso, che l'America, se non collabora, cambia tutto il quadro medio orientale e quindi a suo scapito, però è anche vero che non può collaborare pena la sua, come dire, il suo arretramento nella regione. Ultimissimo fatto, una cosa molto significativa, è che ho notato che alcune sere fa la CBS ha mandato una puntata per certi aspetti, diciamo, devastante del famoso programma 60 Minutes, no? Dove l'inviato andava a vedere un po' come vivono i palestinesi vessati quotidianamente dai militari israeliani. Questo, diciamo, perché già avvezzo una certa informazione, come per così dire, alternativa, sembrava, diciamo, quasi un programma all'acqua di rose, ma un programma, diciamo, seguitissimo in prima serata, diciamo, mi ha dato l'impressione che se hanno allentato un po' anche, no, la stretta propagandistica filo-israeliana addirittura negli Stati Uniti, è segno che qualcosa in effetti sta un po' cambiando, che comunque non possono fare altrimenti in questa fase. Bene, Enrico, noi ti ringraziamo tanto per il tuo contributo e per essere intervenuto questa sera a Giro di Boa. Grazie a voi dell'invito. E speriamo di riaverti Grazie presto mille, Enrico, ai nostri microfoni. E ancora scusa per i problemi tecnici che avevo avuto all'inizio. Ma no, ci mancherebbe altro. Questi sono sempre in agguato. Grazie e a presto. Grazie mille, alla prossima. Sì, volevo sapere solo se sul sito della radio poi potete mettere anche il file. Sì, lo metteremo. Va bene, attendo vostre comunicazioni. Grazie, buona serata. Buona serata. Buona serata, grazie. Grazie a voi. Cari radioascoltatori, vi vorrei ricordare che il 4 febbraio si è celebrata come ogni anno la giornata mondiale per la lotta contro il cancro. Il tema di quest'anno è stato in particolare la lotta all'obesità e al sovrappeso. E di questo tema si è occupato il nostro nuovo collaboratore Maurizio Molinari, che ha intervistato Silvio Garattini, direttore dell'Istituto di Ricerca Farmacologica Mario Negri di Milano. E Maurizio gli ha chiesto che senso hanno iniziative come questa per il contrasto ai tumori. Adesso la regia manderà in onda l'intervista realizzata da Maurizio Molinari. Professore Garattini, secondo lei che senso hanno queste iniziative? Beh, sono iniziative che permettono di fare il punto sulla situazione e soprattutto sensibilizzano la popolazione per quanto riguarda soprattutto la prevenzione e poi anche per quanto riguarda la situazione della ricerca, che ha sempre bisogno di essere migliorata e potenziata. Quindi pensa che in concreto servano effettivamente questo tipo di giornate? Io penso che siano utili, poi naturalmente questa è una giornata mondiale, dipende dalle iniziative che si prendono nei vari stati e dalle disponibilità dei ricercatori a parlare con il pubblico e naturalmente anche dalla disponibilità del pubblico ad ascoltare, ma io credo che in linea generale sia positivo il fatto di richiamare l'attenzione almeno una volta all'anno. Senta, lei è il direttore di un grande istituto di ricerca. Quest'anno i temi, diciamo, principali affrontati dalla giornata sono la lotta all'obesità e la prevenzione dell'obesità e del sovrappeso anche nei bambini. Per quanto riguarda la sua esperienza, sono due fattori importanti per la prevenzione contro il cancro? Direi di sì. Noi abbiamo all'Istituto Mario Negri un gruppo di lavoro epidemiologico che appunto studia l'impatto che ha l'obesità sulla, diciamo, come fattore di rischio per i tumori. Naturalmente non è il fattore più importante, perché purtroppo il fattore più importante, anzi i due fattori più importanti probabilmente rimangono ancora il fumo da sigaretta e l'alcol, che sono veramente, diciamo, un tipo di abitudini di vita che rappresenta probabilmente fattore di rischio per circa un terzo di tutti i tumori. E invece, per quanto riguarda i titoli sensazionalisti che spesso appaiono sui giornali, proprio qualche giorno fa su un giornale italiano è apparso un titolo: scoperta la proteina che protegge le cellule contro il cancro. Non crede che questi titoli possano rappresentare un po' un'illusione? Sono assolutamente d'accordo, cioè credo che una delle cose, diciamo, da condannare veramente è quello di destare illusioni negli ammalati e nei loro familiari. La stampa purtroppo tante volte esagera, però anche molti ricercatori, per avere popolarità, danno risultati un po' sensazionali, come se fossero già dei risultati acquisiti. Io credo che bisogna sempre distinguere quelli che sono i progressi delle conoscenze, e nel campo dei tumori abbiamo bisogno di progredire nelle conoscenze, e da quelli invece che sono i reali progressi a vantaggio dell'ammalato. E bisogna tenere che sono più lenti, ovviamente. La scienza, cioè, non ha i tempi, insomma, che noi tutti auspicheremmo. Esatto, la scienza lavora lentamente. I dati sono acquisiti soltanto quando sono ripetuti, e sono ripetuti più volte, e quindi non bisogna mai, e forse bisogna dirlo chiaramente anche al pubblico, che non bisogna mai aspettarsi di ricevere la notizia: oggi abbiamo vinto il cancro. Questa notizia non arriverà mai, perché arriveranno invece notizie di piccoli passi che si compiono regolarmente e che però arrivano con lentezza e riguardano sempre piccoli aspetti di tutto il grande spettro rappresentato dai tumori. Dov'è che si sono fatti questi piccoli passi ultimamente, e dove invece siamo ancora un po' indietro? Beh, i piccoli passi sono stati fatti certamente in molti tipi di leucemie e di linfomi, dove si guadagna in termini di sopravvivenza e quindi di durata di vita, un parametro molto importante. Sono stati fatti certamente in alcuni gruppi o sottogruppi di tumori del seno, attraverso l'impiego di farmaci che colpiscono dei bersagli ben definiti. Sono stati fatti per alcuni tipi di tumore del rene, e invece ci sono ancora tanti tumori per cui il risultato è ancora purtroppo non soddisfacente. Basti pensare ai tumori del polmone, pensare ai tumori del colon, che sono i big killer in qualche modo. Tumore della prostata è un altro tumore in cui si è fatto relativamente poco. Per concludere, quanto è importante la qualità di vita del malato, anche del malato terminale, e il supporto psicologico che si dà al paziente? Perché questi sono altri due temi su cui si concentra questa giornata. Certo, la qualità di vita evidentemente è estremamente importante. Trovare farmaci che migliorano la qualità di vita sarebbe già un risultato importante. C'è tutto il problema della terapia del dolore, che molto spesso non è affrontata in modo adeguato, soprattutto in Italia, dove l'utilizzo degli oppioidi è ancora molto limitato, mentre invece dovrebbero essere messi a disposizione, perché appunto almeno il dolore oggi è possibile certamente controllarlo.